Alta Voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge Ho servito il re d'Inghilterra di Bumil Rabal. State attenti a quello che adesso vi dico. Nel paesaggio intorno al ristorante al cestino, con ogni tempo passeggiavano coppie, sempre un giovane ufficiale in uniforme e una giovane donna, silenziosi e tuffati uno nell'altra, e io che avevo servito l'imperatore da Abissinia, questo non l'avevo mai conosciuto e non potevo indovinarlo. Solo ora avevo potuto cogliere nel segno inesorabile, cogliere la possibilità che quei due non si sarebbero mai più visti. Così questa possibilità faceva di queste persone delle belle persone. Questo era quel nuovo uomo, non quello vittorioso e strillone e orgoglioso, ma al contrario, un uomo umile e meditabondo, con i begli occhi di un animale spaventato. E dagli occhi di queste coppie di amanti, perché anche le coppie sposate qui dal punto di osservazione del fronte diventavano coppie di amanti, imparai dai loro occhi a guardare il paesaggio, i fiori sul tavolo, i bambini che giocavano, il fatto che ogni ora era un sacramento dell'altare, perché il giorno e la notte prima della partenza per il fronte gli amanti non dormivano più, non che fossero a letto, ma qualcosa qui c'era più del letto. C'erano gli occhi e il rapporto umano che per quasi tutta la mia vita di cameriere non avevo conosciuto con tale forza come vedevo e vivevo qui. In realtà io, sebbene facessi il cameriere e a volte anche il maître, io qui ero come in un grande teatro o cinematografo a vedere una pièce o un film triste e innamorato. E qui anche scoprii che il rapporto più umano fra due esseri umani è il silenzio. Un'ora di silenzio, poi un quarto d'ora e poi quegli ultimi minuti quando arrivava la carrozza. A volte il calesse militare, altre volte un'auto e due esseri umani silenziosi si alzavano. Si guardavano lungamente, sospiravano, e poi l'ultimo bacio, e la figura dell'ufficiale si drizzava nel calesse, poi si sedeva, e la vettura partiva verso la collina. L'ultimo voltarsi indietro, l'ultimo saluto col fazzoletto, e poi, quando la carrozza o l'auto scorreva lentamente come il sole dietro le colline, non c'era più nulla, davanti all'entrata del cestino restava ferma una donna, una tedesca. Un essere umano, in lacrime, e continuava ad agitare e far cenni con le dita dal quale il fazzoletto era caduto, per poi voltarsi e con un pianto dirotto correre su per le scale nella stanzetta, e lì, proprio come una barnabita che avesse visto un uomo nel convento, cadere col viso sul piumino e immergersi dentro il letto in un lungo pianto ristoratore. Il giorno seguente quegli amanti partivano con gli occhi rossi verso la ferrovia. Quella stessa carrozza, calesse o auto portava altri amanti dei quattro punti cardinali da tutte le guarnigioni di tutte le città e paesi per darsi qui l'ultimo appuntamento prima della partenza per il fronte. Perché le notizie dal fronte erano tanto cattive per la velocissima avanzata degli eserciti che per quel blitzkrieg Lisa era sempre più preoccupata e preoccupata. Qui non ce la fa più. Siegfried lo vuole portare a Keb, al ristorante alla città di Amsterdam, e poi andrà al fronte. Lì starà meglio. così, l'incredibile ancora una volta diventò realtà. Non ero più al cestino, ero stato lì per l'ultima volta un anno prima. Io avevo salutato in quel modo, avevo gettato il fazzoletto prima che la carrozza oltrepassasse le colline. Anch'io mi feci un pianto e con la ferrovia andai poi al nuovo posto di lavoro. Quei francobolli pregiati li tenevo in una comunissima valigetta insieme al cibo, in una valigia di caucciù gettata via che avevo trovato, perché appena confrontato da un catalogo, dallo Zumstein, il valore di alcuni francobolli, sebbi subito che non avrei più avuto bisogno di ricoprire la mia stanza di banconote da 100, che anche se avessi usato le banconote per tappezzare, anche se me le fossi incollate sul soffitto e in anticamera e nel gabinetto e anche nella cucina, l'intero appartamento tappezzato con le piastrelle verdi di banconote da 100, niente avrebbe uguagliato la somma che un giorno avrei riscosso per quei francobolli. Solo per quei 4 francobolli, secondo lo Zumstein, avrei preso tanto da essere milionario. E così contavo fra me e me: un giorno tornerò, per i tedeschi la guerra ormai è perduta, quindi la fine sarà quanto prima, perché ogni alto ufficiale che entrava da qualche parte io leggevo dal suo volto la situazione. I miei giornali e notizie dai campi di battaglia li leggevo in quelle facce. Anche se si fossero messi sugli occhi monocoli lampeggianti, tuttavia l'avrei compreso. Anche se si fossero messi gli occhiali neri, vedevo con chiarezza come sarebbe finita. Anche se si fossero coperti la faccia con un cappuccio, come maschere nere, secondo la camminata, avrei indovinato da quell'atteggiamento e comportamento dei generali qual era la situazione sul campo di battaglia. E così camminavo lungo il binario e mi venne da guardare nello specchio, e come mi guardai, d'un tratto vidi me stesso come un essere estraneo, come tutti quei tedeschi di tutte le regioni e sfumature di mestieri e malattie e amori, e che io, poiché avevo servito l'imperatore da Bissigna, indovinavo, perché in fin dei conti ero stato istruito dal maître Scrivanek, che aveva servito al re d'Inghilterra. E così mi guardai, e attraverso l'angolo di quello sguardo penetrante vedevo me stesso esattamente come non mi ero veduto, come un soccorso che, mentre stavano giustiziando i patrioti ciechi, si faceva visitare dai dottori nazisti, sarei stato in grado di congiungermi con una maestra tedesca di ginnastica. Tedeschi dichiaravano guerra alla Russia, io celebravo il matrimonio e cantavo di Rainer Diske Schlössen, e mentre a casa la gente soffre, io me la passo bene negli alberghi e alberghetti tedeschi, dove sto servendo l'esercito tedesco e la Eseswaffe, e appena finirà la guerra, comunque non potrò mai più tornare a Praga. Vedevo come non già da qualche parte mi impiccavano, ma come io stesso mi impiccavo al primo lampione, come io stesso, nel caso migliore, mi davo 10 anni e più. E così stavo lì e guardavo dentro la stazione, al mattino completamente vuota, guardavo me stesso come un cliente che mi viene incontro e che poi si allontanerà da me. Però io, che ho servito l'imperatore da Bissinia, io sono condannato anche alla verità. E così come mi ero beato con curiosità della sofferenza e dell'intimità di persone strane, così, ora proprio con lo stesso metodo, sto guardando me stesso e mi sento male per questo sguardo. specialmente perché il mio sogno di diventare milionario, di far vedere a Praga, da quegli hotelier, che io sono uno di loro, e non uno qualsiasi, ma forse anche superiore a loro, e che adesso dipende solo e soltanto da me quel che farò per poter tornare a casa e comprare il più grande degli alberghi ed eguagliare sia Surbeck che il signor Brandeis, qui Sokol, che non mi avevano considerato e con i quali si può parlare solo da una posizione di forza, della posizione di quella mia valigetta nella quale solo per 4 francobolli che Lisa ha saccheggiato a Varsavia o da qualche parte nell'Emberg mi comprerò un albergo, o magari comprerò qualcosa in Austria o in Svizzera. Mi consigliavo con la mia immagine allo specchio, e dietro di me stava arrivando, silenzioso, il convoglio del rapido, un treno ospedale militare dal fronte, e quando fermò, vidi nello specchio le tendine tirate, e ora una tendina si alzò. La mano che teneva la cordicella l'aveva lasciata, e su un letto stava distesa una donna in camicia da notte, sbadigliava da slogarsi la mascella, e si strofinava gli occhi, e dopo guardava con gli occhi assonnati. Dove aveva fermato quel treno? E io guardavo. E lei guardava a me, ed era Lisa, mia moglie. Saltar su e oltrepassare la ringhiera di divisione, e corse fuori così com'era, e prima che me ne potessi render conto mi si era attaccata al collo e mi baciava come da nubile, e io che avevo servito l'imperatore d'Abissinia vidi che era cambiata, così come erano cambiati tutti quegli ufficiali che erano venuti dal fronte e al cestino avevano passato una settimana piacevole con la moglie o con l'amante. Elisa, proprio allo stesso modo, aveva dovuto vedere e provare cose incredibili che però erano diventate realtà. Ed era di nuovo quella maestra di ginnastica. Guidava un convoglio militare di mutilati, diretto laddove andavo anch'io, a Chomutov, in un ospedale militare vicino al lago. E io salì con quella valigetta, e poi il treno si mise in moto, e io entrai nello scompartimento da Lisa. E quando le tolsi la camicia, dietro le tendine tirate, la porta chiusa, tremava, come quando era una ragazza libera, perché probabilmente quella guerra l'aveva resa libera, umile. In cambio tolse i vestiti lei a me, e nudi stavamo stesi, abbracciati, e si lasciava baciare da me la pancia, e tutto al ritmo del treno e dei respingenti che si muovevano e toccavano e moleggiavano sui giunti. Di Chomutov c'erano in attesa ambulanze e vetture e autobus interi degli ospedali mobili sui 6 pneumatici, e io non obbedii a Lisa e stavo alla fine del marciapiede sgomberato. Mi lasciarono stare lì solo perché ero sceso con Lisa, che si presentò al comandante della stazione, ma poi scaricarono ciò che aveva portato dal fronte questo treno. Mutilati di fresco, e in grado di essere trasportati tutti quanti, quelli che non potevano camminare con le gambe amputate, una o ambedue. E tutti quei soldati li caricarono in auto e convogli. Il marciapiede era pieno di mutilati, e quando li guardai, non già riconobbi, ma seppi, che erano tutti quelli che erano stati ammessi in quella cittadina sopra Diecin. tutti quelli che s'erano come dati l'addio al cestino, e quello era l'ultimo quadro della loro commedia, teatro o cinema. E io partii col primo convoglio per il luogo dove ero stato comandato, lo spaccio dell'ospedale militare, con la valigetta in grembo, mentre la valigia di cuoio la buttai sul tetto del portabagagli, fra le bisacce e i fagotti militari. Quel giorno mi limitai a passeggiare per la campagna e il campo che si spingeva fino ai piedi di una collinetta in un giardino di ciliegie e viscele che scendevano fino a un lago di pietra solforosa, il quale somigliava ancora ora al lago di Genazaret o al sacro fiume Gange, perché gli addetti trasportavano su lunghe banchine mutilati con le ferite marce delle amputazioni in questo lago, nel quale non c'era un solo insetto, un solo pesce. Tutto in quell'acqua era perito, e mai più, finché l'acqua sarebbe sgorgata da quella cava di pietra solforosa, mai più sarebbe qui comparsa la vita. Così qui dentro stavano stesi mutilati. Quelli che erano già un po' rimarginati nuotavano lentamente. Gli mancava una gamba, oppure ambedue sotto le ginocchia. Alcuni non avevano affatto le gambe, così soltanto quei tronchi muovevano come rane le braccia nell'acqua, dove dal lago azzurro spargevano le teste. Sembrava la stessa cosa di quelle piscine sopra Diecine. Erano di nuovo quei belli imbusti, tuttavia dopo aver finito di nuotare, dopo essere restati nel lago per il tempo ordinato dal medico, si tiravano su con le braccia e così strisciavano fin sulla riva come tartarughe. Restavano distesi e aspettavano che gli addetti li mettessero negli accappatoi e nelle coperte calde, e lentamente intere centinaia di questi, l'uno dietro l'altro, attraverso banchine convergenti e a reggiera, li avrebbero portati sullo spiazzo principale davanti al ristorante, dove suonava una banda femminile e si servivano cibi. Altra cosa mi faceva impressione al reparto con il midollo schiacciato. Quelli che si trascinavano dietro la parte inferiore del corpo sembravano sia in terra che in acqua delle sirene. E poi quelli senza gambe avevano il tronco così piccolo che parevano avere le teste direttamente sulle gambe, e proprio a questi piaceva giocare a ping pong. Avevano delle carrozzine ripiegabili cromate, con le quali riuscivano a muoversi così veloci da giocare anche a football, solo che invece delle gambe usavano le braccia, in realtà handball. E in generale, appena si erano un po' ripresi, quelli con una gamba senza braccia e con le teste bruciacchiate, tutti avevano una tremenda voglia di vivere, giocavano a football e a ping pong e a quel handball fino all'imbrunire. Li suonavo con una trombetta, con questa ritirata li chiamavo per la cena, e tutti, arrivando su quelle carrozzine o trascinandosi con le stampelle, tutti risplendevano di salute, perché qui in questo reparto dove io servivo da mangiare, qui c'erano già le cosiddette riabilitazioni, mentre negli altri tre reparti i medici mettevano i feriti dal fronte, con operazioni, poi elettroshock e ionoforesi insieme. Quei mutilati, avevo a volte la visione invertita, così continuavo a vedere quelle membra che avevano perduto. Mi succedeva che le membra mancanti le vedevo e quelle reali mi scomparivano, sicché prendevo paura. Ma che cosa stavo vedendo? E poi tutte le volte mi misi un dito sulla fronte e mi dissi: perché vedi così? Perché hai servito l'imperatore d'Abissinia, perché sei stato educato dal maître Scrivanek, che aveva servito il re d'Inghilterra. Thank you. settimana io e Lisa andavamo a trovare il nostro figliolo a Cab, all'hotel alla città di Amsterdam. Lisa ora era tornata al suo nuoto ed era quel che ci voleva per lei. Sguazzava continuamente nel lago e per il nuoto era così soda e bella come una statua di bronzo, sicché non vedevo l'ora che stessimo insieme. Lisa avrebbe camminato nuda per l'edificio, tiravamo le tende, e d'altronde Lisa era proprio cambiata. Si era comprata un libro di non so che sportivo del Reich Fourré o Fouquet, e lì c'era il culto del corpo nudo, e siccome Lisa aveva un bel corpo, si era messa con i nudisti anche se non era stata da loro. La mattina mi portava al caffè, magari solo in gonna, a volte veniva anche nuda, e quando mi guardava veniva soddisfatta e sorrideva, perché nei miei occhi vedeva che mi piaceva, e che dunque era bella. Ma con Siegfried, il figliolo, erano problemi. Ogni cosa che gli capitava in mano la buttava via, finché una volta, mentre strisciava sul pavimento della città di Amsterdam, prese un martelletto e il nonno, così per scherzo, gli dette un chiodo, e quel ragazzo mise dritto il chiodo e con un colpo solo lo piantò nel pavimento. E poi questo ragazzino, mentre gli altri giocavano con i sonagli e con gli orsacchiotti, mentre gli altri bambini ormai camminavano, Siegfried strisciava sul pavimento e tanto strillava finché gli davano martelletto e chiodi, e li piantava nel pavimento, che era un piacere. E mentre gli altri bambini ormai cominciavano a balbettare, il nostro figliolo non solo non camminava, ma non diceva nemmeno mamma, spasimava solo per il martello e i chiodi. E finché restava sveglio, la città di Amsterdam era squasciato dai colpi di martello, il pavimento era pieno di chiodi piantati, e per questo aveva la destra così sviluppata che già da lontano si vedeva col braccio forte. E quando eravamo in visita, ogni volta non ce la facevo più, d'altronde il figliolo non conosceva nemmeno sua madre, non voleva altro che quello che poi gli davano, martelletto e chiodi. E i chiodi erano razionati e su tessera, oppure al mercato nero. Dovetti poi cercare chiodi dove si poteva. Il figliolo, a forza dei colpi, ficcava chiodi di 6 centimetri nel pavimento. E ognuno di quei colpi mi prendeva la testa fra le mani, perché subito, la prima volta, di quel mio bambino, di quell'ospite, che era il mio figlioletto, avevo capito che era e sarebbe stato un cretino. E mentre gli altri bambini della sua età sarebbero andati a scuola, Siegfried avrebbe cominciato a camminare. E mentre gli altri faranno la scuola, Siegfried imparerà sì e no a leggere. E mentre gli altri si staranno sposando, Siegfried starà imparando l'orologio, e porterà il giornale, e starà a casa, perché non potrà servire a niente. L'unica era ficcare chiodi. Così guardavo il mio figlioletto e ogni visita vedevo il pavimento di un'altra stanza con tutti i chiodi infilati. Continuavo giustamente a giudicare, perché il nostro ragazzo non lo guardavo come mio figlio, ma come un ospite. E però quel ragazzo ossessionato dai chiodi infilati nel pavimento non era una cosa semplice. La faccenda prendeva un altro senso. Quei suoi chiodi ficcati nelle assi del pavimento con il martello, se tutti quando suonava un bombardamento scappavano nei rifugi, Siegfried era tutto contento e gioiva. Se gli altri bambini se la facevano sotto, Siegfried batteva le manine e rideva, e a un tratto era così bello come se gli fossero andate via le convulsioni e la membrana della corteccia cerebrale. E se cadevano bombe, Siegfried piantava chiodo dopo chiodo dentro un'asse che gli avevano portato dietro in cantina, e rideva a squarciagola. E io, che avevo servito l'imperatore d'Abissinia, ero contento, perché il figliolo era sì stupido, ma non poi tanto da non saper predire il futuro di tutte le città tedesche, delle quali sapevo che tutte sarebbero finite esattamente come i pavimenti delle stanze dell'albergo. Comprai 3 chili di chiodi, e Siegfried alla mattina li infilava nel pavimento della cucina, e al pomeriggio, mentre infilava chiodi nel pavimento della stanza, io tiravo faticosamente fuori i chiodi dalla cucina e gioivo in spirito di come i bombardamenti a tappeto del maresciallo Tedder, allo stesso modo, infilavano nella terra le bombe esattamente secondo i piani, perché il mio ragazzo infilava i chiodi esattamente secondo le rette e ad angolo retto. Il sangue slavo aveva di nuovo vinto, e io da ragazzo ero orgoglioso, perché non parlava ancora, però aveva cominciato a camminare, ma sempre come bivouac, col martelletto saldamente in mano.